Quando poi ne è buona, capito? Che cazzo ha comprato a fare? Una piotta di registratore? Poi buttati proprio. Boh. Non più di cazzare che ci registriamo un filo su questo. Come i nostri antenati. Non ci siamo Oddio, gliela puoi fare? Marco, vieni. Simone, avevo preso un ripresto che mi dava sulla Gaia. Vabbè, non vi preoccupate. Grazie a tutti. gire, no? Su 16 gire. Siamo una stronza mortacci sua. Presentarvi i vari argomenti del programma, cercando di mantenere sempre un legame con quella che poi sarà la vostra attività professionale, insomma, mi auguro. E quindi ogni cosa che dico, pressoché ogni cosa, avrà in qualche modo una sua ricaduta. Poi ho cercato appunto di scremare gli argomenti da alcune nozioni, insomma, che alla fine poi rimangono sterili, da quelle che invece sono necessarie poi per poter comprendere e meglio utilizzare gli strumenti che avete a disposizione, poi, diciamo, grazie al contributo degli altri docenti, e anche quello di comprendere meglio le patologie con cui, da cui sono affette le persone con cui avete in contatto, e quindi comprendendole meglio anche poter dare un vostro contributo personale, una maggiore, non dico entusiasmo, anche se in assenza di quello, una competenza che viene proprio da una conoscenza profonda del problema, che nulla esclude, come è già successo in passato, che qualcuno di voi possa anche definire delle variazioni originali, delle interpretazioni, delle innovazioni. Non è perché voi non siete medici che non possiate contribuire anche voi, perché qui si tratta di esplorare un campo che ancora dà molte possibilità. Però ovviamente più solide basi avete di conoscenze appunto elementari, e più credo potete lavorare conoscendo a fondo le conseguenze di quello che fate e anche eventualmente dare un contributo. Allora, cominciamo ovviamente da come è strutturato il cranio. Come vedete, ci sono, vi ricordate, insomma, le suture. Molto importante questa sutura mediana, appunto sutura sagittale, che come vedete divide le due ossa frontali e poi più posteriormente i parietali. Poi vedete appunto che ci sono varie suture che separano appunto quelle craniche dalle ossa facciali. Queste non è che le voglio sapere, appunto, però notate la relazione stretta che c'è tra l'osso frontale, per esempio, e la parete superiore dell'orbita. Quindi dovete immaginare che a volte delle fratture apparentemente lontane dall'orbita possono interessare l'orbita. Per esempio, tipicamente le fratture di base hanno come spia, come segnale, degli ematomi. L'avete visto in qualche persona anziana che vi sarà capitato di incontrare da qualche parte, dopo una caduta, che ha questi ematomi sottocutanei proprio sotto gli occhi o intorno agli occhi. Uno pensa, dice, ma c'è un problema nell'occhio? No, l'occhio, l'orbita non l'ho sbattuto per niente. Appunto è questa comunicazione che avviene attraverso tutte le suture, attraverso le quali si trasmettono le forze diciamo, che impattano vari livelli della calotta, e si scaricano generalmente verso il basso, perché è così che, diciamo, che deve avvenire, è così che si è strutturato. Ovviamente il fatto che abbiamo il cranio si è formato proprio per cercare di spegnere o ridurre i vettori di forza che giungono direttamente dal piano, per fare in modo che si scarichino meno sul contenuto, quindi quello più prezioso che va protetto, e più appunto, quindi paradossalmente in alcuni casi vedremo che a volte un trauma cranico chiuso può avere conseguenze peggiori di un trauma cranico aperto, cioè diciamo con una frattura magari esposta, fa più pressione a vedere, ma a volte è meno traumatico. Perché? Perché in quel caso, non è la regola, ovviamente è chiaro che un colpo d'accetta che entra dentro il cranio, insomma, farà un disastro sia fuori che dentro, ma non è del tutto infrequente che un trauma cranico chiuso abbia conseguenze peggiori di un trauma cranico aperto. Naturalmente un trauma cranico aperto è più impressionante a vedersi, non c'è dubbio, quindi perciò anche se vi dovesse capitare di assistere a un incidente eccetera, così non vi disperate, non disperate la persona che magari ha questa testa aperta che ovviamente fa impressione, perché può risolversi tutto tranquillamente. Mentre è molto peggiore uno che ha tutto intero, non si vede sangue, non si vede niente, però non risponde, magari non sta neanche respirando. Quindi vediamo anche, ecco, una proiezione laterale in cui vedete appunto un'altra sutura importante, che è la sutura coronale qui davanti, che appunto separa il frontale dal parietale, e poi un altro osso estremamente importante che è l'osso temporale, che è formato di una parte che è la squama, una parte sottile, e una parte invece posteriore che è la rocca petrosa, che sta lì, all'interno della quale è alloggiato l'orecchio, la parte diciamo interna dell'organo uditivo. Scusi, come si chiamava? Loggia petrosa. Rocca petrosa. Allora, queste sono cose pure che trovate lì, adesso questo è solo un ripasso. Perché è importante il temporale? Diciamo, chi conosce le arti marziali dal punto di vista dei principi teorici, insomma, dell'impatto, ovviamente nel campo sportivo no, perché non si usa generalmente l'impatto, tranne appunto in alcune discipline thailandesi, ma appunto la nonna spesso l'avrà detto: attenti a non fare sbattere la tempia, no? La famosa tempia, come sbattere la tempia? Con la tempia è la squama del temporale. Perché è così pericoloso sbattere la tempia? Si sa tanto tempo, perché appunto nelle arti marziali è un colpo, è una zona dove si infliggono dei colpi mortali, come anche qua davanti alla radice del naso. Adesso quando guardiamo dentro la testa capiremo anche questo. Perché appunto la squama del temporale ha due debolezze tra virgolette fondamentali. Una è quella che appunto è particolarmente sottile, al contrario della rocca petrosa che invece è estremamente solida, cioè la sua parte posteriore, invece la parte anteriore è estremamente sottile. E poi perché al di sotto dell'osso c'è la dura madre che è estremamente aderente all'osso, tanto aderente che adesso vedremo che lascia, andiamo un po' avanti così, ecco, vedete, tanto aderente che addirittura lascia delle impronte, vedete tutte queste impronte che vedete qui stiamo guardando l'interno della base cranica, questo è il temporale appunto, e qui vedete che all'interno ci sono queste impronte lasciate proprio dalle circonvoluzioni cerebrali e dalle arterie che decorrono nelle meningi, con la pulsazione, quindi in anni di pulsazione, l'osso è un materiale biologico, quindi è un materiale che si adatta, quindi deformabile, e piano piano vedete le impronte di queste strutture, quindi vedete le impronte, e quindi addirittura i vasi meningei, che passano, i più grandi passano qui, l'artera meningea media e le sue diramazioni, sono talmente, passano all'interno della dura madre, la dura madre è talmente aderente all'osso che quando c'è una frattura lineare dell'osso può pinzettare questa arteria e determinare un ematoma che si chiama un ematoma epidurale, di cui parleremo, e che ha conseguenze drammatiche, è un ematoma mortale potenzialmente. È il motivo appunto per cui si quella tempia è così delicata, diciamo così, è così, fa così preoccupare le nonne. Poi ecco le altre suture che vedete, la sutura fa di parlare, abbiamo detto, poi c'è la sutura, la nudoidea, che divide i temporali dall'occipitale. Vedremo che in alcune malformazioni del bambino, bambini che poi possono avere dei problemi che voi siete chiamati a trattare, questa architettura e la chiusura di queste suture può essere alterata e quindi alterare poi la forma del cranio e anche in alcuni casi lo sviluppo del contenuto. Ecco perché ne stiamo parlando. Quindi insomma, le suture sono importanti. Sono importanti anche perché nei casi appunto di malformazioni invece congenite del bambino all'interno del cranio, finché le suture sono non saldate, cioè fino circa all'età di 2 anni, poi sapete che diciamo, anche se voi provate a tingere un cranio quando la pelle è scoperta, secondo me lo possiamo facilmente provare durante gli interventi che facciamo, voi vedete che premendo in questa zona vedete un certo movimento, quindi non è che la sutura sia perfettamente saldata come no, quindi c'è una certa mobilità, ma certamente non si lascia distendere, non si lascia scollare, mentre appunto il bambino fino a 2 anni si lascia distendere, quindi un aumento della pressione all'interno del cranio può dare entro certi limiti una possibilità di compenso ulteriore rispetto a quella che avrebbe nell'adulto, perché appunto proprio il cranio è distensibile entro certi limiti, vedremo anche quanto. Ecco, qui invece vedete la base cranica vista da fuori, vedete che ci sono ovviamente una serie di fori, non voglio sapere tutti quanti, sappiate che naturalmente da questi fori devono entrare i vasi fondamentali, no? I vasi principali, deve entrare il tronco cerebrale perché poi continua nel midollo spinale, quindi dal foramen magno ovviamente passa il tronco cerebrale e quindi qui ci sono i condili che si articolano con la prima vertebra cervicale e poi appunto ovviamente ci sono i fori da cui entrano le carotidi, no? Le carotidi comuni, mentre le vertebrali che poi confluiscono nell'artera basilare entrano pure loro dal forame magno. Altre cose insomma non è necessario che le sapete, perché poi ovviamente entrano, da lì escono per esempio tutti i nervi cranici, escono le vene ovviamente dall'interno del cranio, però insomma questo non è, credo che non sia necessario sapere. E quindi ritorniamo all'interno, quindi abbiamo detto della parte temporale, vedete che praticamente grosso modo la base cranica è organizzata come, se qualcuno immagina qualche si intende di storia dell'arte, alcune volte delle chiese sono proprio strutturate praticamente così, praticamente c'è questa struttura proprio esattamente con queste costole che salgono e formano una specie di X all'apice della cupola, non so se avete presente qualche immagine del genere, qui è esattamente la stessa cosa, quindi qui vedete questi pilastri, questo e quello gemello dall'altra parte che appunto sono la parte interna delle rocche vetrose e poi questi altri che vedete qua che sono appunto le due ali sfenoidali. E queste appunto che cosa servono? Servono, come provate a immaginare, quando ci sono delle forze che comprimono, si scaricano attraverso il cranio, questi le convogliano su questa parte centrale che come vedete è molto massiccia, molto solida, questa parte centrale che appunto è formata da appunto il tubercolo olfattorio, la sella e il clitus. Va bene? Guarda, un osso estremamente spesso lì. E quindi ovviamente questo fa sì che queste forze, diciamo, in parte c'è una certa elasticità e poi ci sono queste forze che scaricano all'interno e quindi ovviamente evitano che ci siano delle rotture, comunque per avere una rottura ci vuole un certo impatto. Poi che cosa altro vedete qui di importante? L'altra cosa che avevamo accennato è per esempio che dice il motivo per cui un colpo qui alla base, un colpo appunto inteso in senso marziale, alla base del naso, qui può essere mortale. Come? Perché appunto, come vedete, c'è questa struttura che si chiama crista galli, che è estremamente aguzza, che stai proprio in mezzo e che non è difficilissimo fratturare con un colpo ben assestato alla radice del naso, perché appunto sta più o meno in questa corrispondenza qui, proprio sulla base del cranio. Immediatamente sopra ci sono due arterie fondamentali, si chiamano cerebrali anteriori, la cui lesione, ovviamente, a me è capitato un caso in tribunale, appunto il perito, di un, per farvi capire quanto non è che sia lontano anni luce, qui stiamo parlando di centimetri, di millimetri, un otorino che mentre toglieva dei polipi, è successo davvero, sto raccontando una cosa in tribunale, e praticamente gli è sfuggito lo strumento, immagino, perché poi io ovviamente dico che non è successo niente, ed è entrato lì dentro, è entrato nel cranio e ha bucato la cerebrale anteriore, però ha fatto quello che facciamo noi spesso quando facciamo le cose sperimentali con gli animali d'esperimento, che creiamo per poter poi lavorare, creiamo degli aneurismi artificiali, aneurismi portavali, cioè praticamente noi è come se indebolissimo la parete dell'arteria con un taglietto e piano piano questa con la pulsazione forma un aneurisma, cioè una dilatazione laterale, no? E questa signora quindi non ha avuto un danno immediato, lei non si è accorta subito, no? Quindi c'è stata questa perforazione, però ha semplicemente indebolito la parete, questo strumento puntuto ha indebolito la parete dell'arteria e piano piano lì si è formato l'aneurisma e poi questo aneurisma post-traumatico si è rotto successivamente. Quando sono andati a operarla hanno trovato una cosa stranissima, perché questo aneurisma non era un aneurisma di quelli cosiddetti spontanei, no? Ma c'era tutta una perforazione, una rottura che veniva dal basso e quindi chiaramente il chirurgo l'ha descritta, il neurochirurgo l'ha descritta e poi tu che stai innescato tutto il procedimento giudiziario, ma questo a distanza di credo un anno e mezzo mi pare, quindi ecco per dirvi che tutto sommato tra la parte sulla sommità del naso e l'interno del cranio c'è una piccola distanza, questo spiega anche perché appunto delle fratture di base possono, perché ovviamente nonostante tutta la struttura bellissima, così molto resistente, si frattura lo stesso, e le fratture di base specialmente a carico della rocca vetrosa e di quella zona lì, appunto della zona etmoidale, facilmente può mettere in comunicazione, spesso mette in comunicazione il contenuto cranico, quindi ovviamente si deve essere fessurata anche la dura madre, no? Perché la dura madre riveste sia la superficie del cervello e sia tutta quanta la base e la volta, quindi come se ci fosse una riflessione del foglietto sia sulla base che sulla volta. E questa, ovviamente quando c'è una fissurazione, mette in comunicazione il liquor, quindi lo spazio sul baracnoideo che contiene il liquor, con l'esterno, con la conseguenza, prima di tutto, che uno sembra che ci abbia un perenne raffreddore oppure una perenne otite secretiva, ma la cosa più rischiosa è che potete immaginare che comunicazione diretta tra l'esterno, una cavità settica, con una zona invece totalmente sterile, provoca meningite. Quindi attenzione, uno che dopo un trauma, apparentemente questo è un'altra cosa che è successa, che è arrivato al fisioterapista, uno che ha avuto un incidente, poi si è riabilitato, sembrava tutto a posto, eccetera, il fisioterapista si è accorto che quando lo metteva in certe posizioni questo c'era un'uscita di questo liquido trasparente, perfettamente trasparente dal naso, ed è lui che ha detto al medico: guardi che c'è una cosa strana che succede, adesso voi potreste dire di più, di dire guardi questo probabilmente c'è una pistola liquorale, cioè c'è una comunicazione dovuta al trauma che lì per lì può non essere evidente, quindi può darsi che all'inizio, anche perché dopo un trauma uno spesso sta steso così, no? Sta a letto, quindi magari è più difficile che si manifesti questa fuoriuscita, e invece poi in certe posizioni questo liquido invece esce, a quel punto ovviamente il rischio è grande, quindi è importante fare una diagnosi, è decisivo fare una diagnosi precoce. Va bene, quindi più o meno, insomma, avete capito che tutte le cose che vi ho detto hanno un loro, no? Un loro senso, no? Per capire la drammatologia, per vedere. Ecco, qui si vedono meglio, no? I decorsi delle. Vedete come si vede bene il decorso della terra meningea media, eh? Vedete nei suoi rami, questo è il ramo, diciamo, principale, poi si divide in questi due, e quindi capite che una frattura del temporale a questo livello facilmente la può intercettare, la può pinzettare e si può creare questo sanguinamento, questo ematoma. Ricordatevi che nel lessico, nella terminologia, ematoma è una cosa saccata, è una cosa che ha una delimitazione, che sta in uno spazio ben definito. Emorragia invece è qualcosa di diffuso, di non saccato, di non delimitato. Questo in generale è così. Qui vi ricordate che appunto è alloggiata l'ipofisi, no? Dentro nella sella turcica, anche questo, insomma, è una struttura molto importante, nonostante sia appunto difficilissimo che le fratture arrivino fino a là, appunto per come è strutturato il cervello, scusate, come è strutturato il cranio. Vabbè, poi le impressioni le vedremo. Ecco, un'altra cosa importante da notare è che dovete ricordarvi che il contenuto cranico non è fermo, no? Dovete immaginare che il contenuto cranico è come una vasca in cui c'è una paperella dentro. Se voi spostate la vasca da una parte, la paperella tenderà all'inizio ad andare dalla parte opposta, poi colpisce il bordo e poi ritorna da quest'altra parte seguendo l'onda di ritorno. All'interno del cranio funziona la stessa cosa, perché il cervello, come sapete, contiene ed è immerso nel liquor, quindi diciamo così quasi galleggia, no? E quindi quando c'è, ammettiamo, un trauma con un'accelerazione anteroposteriore, e quindi come può essere appunto, non so, un tamponamento in macchina, quindi il cervello ha un ritardo rispetto al resto, al cranio. Il cranio parte per primo, il cervello ha, diciamo, c'ha una frazione di secondo più tardi parte, e poi quando il cranio si è fermato contro il parabrezza, ad esempio, o contro il guardrail da qualche parte, il cervello arriva un po' più tardi, il cranio è fermo, il cervello arriva dopo. Quindi immaginate appunto che c'è un doppio trauma, no? Quello di partenza, diciamo così, il cervello rimane, e poi quello di arrivo che è. E dove va a urtare il cervello? Appunto su queste scabrosità che abbiamo visto, quindi su queste scabrosità anteriori, quindi la cresta galli, scabrosità della base cranica, ovviamente sulle creste sfenoidali, no? e sulle rocche pedrose, e qui dietro ovviamente su queste protuberanze che ci sono a livello occipitale. Perché vi dico questo? Perché quando voi guardate, osservate i pazienti che hanno avuto un trauma cranico importante, troverete che ha spesso una sintomatologia correlata con le zone delle contusioni. E dove sono le contusioni? Quindi le contusioni proprio, si parla proprio così di contusioni, quindi è proprio il tessuto cerebrale che direttamente impatta su queste strutture, anzi, diciamo, con la mediazione della dura madre, ma tuttavia l'impatto c'è lo stesso. E quindi spesso voi vedrete, abbiamo qualche immagine, vedete, ma vedo che sta in piedi, vedete che sta io adesso in piedi, vedete? Quindi, nonostante la mediazione della Biagliori, c'erano almeno 60 persone. Tanto per sapere quanti siete in tutto, lo sapete? Noi me l'ho detto una sessantina circa, no? Però dico vedere la prossima, insomma, le aule sono prenotate, però non possiamo sedere adeguate. Allora, ecco, quindi è la sede delle contusioni, la vedete proprio, cioè la vedete alla risonanza magnetica, la DAC è sempre spesso la stessa, quindi le basi dei frontali, quindi proprio sopra le orbite, lì davanti, l'abbiamo visto, quindi questa spesso è la zona di lesione, no? E poi i poli temporali, perché anche lì i voli temporali sono appunto qua, ve lo ricordate, qui c'è il temporale, il dopo temporale, e va a impattare contro questa zona qui. Quindi, e guardate caso, a livello frontale, quindi spesso una cosa che potete notare voi, che magari spesso i clinici non l'hanno notato perché il paziente non è in condizione, per esempio, siccome sapete che qui a questo livello dell'etmoide, no, e della crista galli escono i disruption fattori per formare i nervi fattori, spesso questi pazienti hanno perso il senso dell'olfatto, cioè c'è stato uno stiramento proprio per questa mobilità del cervello dei disruption fattori, e questi o da una parte o da tutte e due le parti hanno perso l'olfatto, ed è una cosa talmente sottile che non, spesso in ospedale non, la diagnosi non si fa, quindi magari potete contribuire. E poi ovviamente per quanto riguarda l'aspetto riabilitativo, sappiate che per esempio i poli temporali sono una regione più epilettogena delle altre, e quindi a volte può innescare questa contusione cerebrale un'epilessia. L'epilessia non è che dovete immaginare, non so se già avete parlato, già qualcuno ha parlato di epilessia, non è che dovete immaginare che l'epilessia è sempre quella classica descritta nella Bibbia, no? Dell'indemoniato, quindi con la bava che si strappa la lingua, che rovescia gli occhi, no? E sta per terra e si agita. Ma ci sono tanti tipi di epilessia. Un tipo di epilessia, per esempio, classicamente un'epilessia temporale è l'assenza, cioè semplicemente uno che vi guarda, praticamente si blocca, ma non pensate ultimamente di essere epilettici, ovviamente, ma però un tipo di epilessia è così, uno vi guarda, si blocca e poi a un certo punto dice ma che hai detto, perché si è perso completamente una parte del discorso, ma non perché era distratto, perché proprio si è spenta la coscienza, non c'è più, però lui è rimasto apparentemente, chi lo guarda, vigile, però chi sta davanti lo nota che c'è qualche cosa che non ha, soprattutto perché questa cosa si ripete nel tempo. E quindi questa è una cosa che magari potete scoprire voi, quindi può essere una cosa che mentre voi state trattando il paziente scoprite che improvvisamente questo non sta più con voi per pochi secondi, quello magari non è stato scoperto fino a quel momento, le cose che sono successe, quindi tutte le cose che vi dico hanno una loro ragione di essere. E quindi ecco, quando un paziente ha avuto una contusione temporale, drizzate le antenne, nel senso che state più attenti a questi aspetti qua. Poi è chiaro che, questo ve lo dico per inciso, non è che l'epilessia è causata dalla contusione, la contusione è il fattore scatenante, ma ci sono delle persone, potete calpestargli i lobi temporali, lo sappiamo noi bene che facciamo la chirurgia, quindi a volte per raggiungere i tumori o le lesioni siamo costretti a attraversare la corteccia cerebrale. Alcune persone gli potete fare qualsiasi cosa alla corteccia, non avranno mai una crisi epilettica, mai. E delle persone, anche persone banali dove non c'è stata nessuna contusione, che sviluppano un'epilessia, anche un'epilessia importante, difficile da controllare farmacologicamente. Quindi ci vuole, e questo lo ripeterò, lo sentirete ripetere centinaia di volte durante le lezioni, dovete sempre pensare, non pensate che c'è una cosa e poi si sviluppa la patologia, ci vuole sempre una predisposizione, quindi questo vale per i tumori, vale per l'ernia discale, vale per le compressioni dei nervi periferici, vale per le compressioni midollari, vale sempre, ci vuole una predisposizione, cioè non basta dire, quindi ricordatevi sempre quando vi faccio la domanda, per l'esame, a parte la predisposizione che conta per la maggior parte, poi ci sono anche questi fattori che ci... Ma tanto lo ripeterò talmente tante volte che... Quindi il lavaggio del cervello funzionerà. Ecco, quindi qui insomma si rimarca quali sono le zone principalmente interessate dalle contusioni cranche. Poi appunto c'è un sistema, diciamo, di basi, ovviamente c'è un sistema venoso diploico, quindi che sta all'interno del cranio. Il cranio, sapete, è formato da un tavolato esterno, un tavolato interno, e la diploide sta in mezzo. All'interno della diploide c'è un circolo, c'è una struttura venosa, lo sappiamo bene noi quando dobbiamo fare gli sportellini per appunto entrare dentro il cranio, a volte dobbiamo mettere della cera sul bordo che abbiamo, sul bordo dell'apertura che abbiamo trovato, perché sangue, è un sanguinamento venoso, quindi non è un sanguinamento venoso, è un sanguinamento fastidioso, quindi mettiamo della cera per bloccare queste vene che stanno nella diploide, a volte possono sanguinare anche abbastanza, insomma. Quindi l'osso non è morto, l'osso è estremamente vitale, e poi comunque queste La goniometro ossa si scaricano alla fine nelle principali vene che stanno ovviamente a livello della dura madre. Ecco un'altra cosa importante, ad esempio, ecco questa struttura, come vedete, questo grosso collettore venoso che sta qui, vedete, praticamente ricalca all'interno quello che è il disegno all'esterno della sutura sagittale. Perché è importante? Perché la stessa cosa che può avvenire a livello appunto del temporale quando si frattura, a volte per fratture di vertice si può lesionare questo seno venoso e quindi dà esattamente un ematoma dello stesso tipo, da un ematoma epidurale. Siccome questo seno venoso è così, praticamente drena tutti e due gli emisferi, quindi drenaggio venoso di tutti e due gli emisferi, è talmente importante che quando ci capita, diciamo, chirurgicamente di operare alcuni tumori che appunto nascono dalla meninge e quindi a volte si portano a ridosso o addirittura infiltrano questo seno venoso, si chiamano meningiomi, noi non li possiamo asportare tutti, cioè ci dobbiamo fermare, perché se il seno venoso ancora non è interrotto e quindi passa ancora il sangue, noi lo interrompiamo per portare via il tumore, il paziente muore semplicemente, oppure fa una gravissima emiplegia, perché tutti e due gli emisferi, oppure un emisfero, diciamo quello che drena meno, quello della parte che drena meno, fa un edema acuto, proprio dal fatto che questo sangue non viene drenato, non viene portato via dall'emisfero. E quindi siamo costretti ad aspettare paradossalmente a volte che il residuo di tumore lentamente, perché sono tumori molto lenti, lentamente ostruisca questo seno. Allora, nel frattempo, siccome questa cosa è molto lenta, le risorse biologiche fanno sì che si creino dei circoli collaterali. Allora a quel punto, quando è completamente ostruito, noi possiamo tranquillamente interromperlo e non succede niente. Però ci vogliono anni perché succeda questo, perché noi lo facciamo acutamente quando ancora c'è un passaggio di sangue, rischiamo appunto di fare. Quindi ecco, questo collettore venoso è così importante. E quindi quando le fratture intercettano la dura madre a questo livello, anche lì si può sviluppare un ematoma. E a volte, nonostante questo seno sanguina come un'arteria, perché è veramente impressionante, e il paziente si può sanguare in pochi minuti, se uno lo apre non lo tampona immediatamente, per pochi minuti si stanga, per farvi capire quanto è importante. E tuttavia, siccome la pressione all'interno del seno ovviamente è una pressione da vena, non è una pressione da arteria, no? Quindi la pressione nelle vene è nettamente più bassa, diciamo è prossima allo zero, poco sopra lo zero, diciamo circa 5 cm. E mentre invece l'arteria è molto elevata, no? Sapete, insomma, anche a distanza dal cuore, la pressione misurata è qui, quindi è un'arteria, diciamo, di secondo ordine, no? Come l'arteria brachiale. E le pressioni appunto sono 120, così, quindi all'interno della carotide, nei vasi, diciamo, tributari della carotide sarà 80, 60, 70, insomma come media, come pressione arteriosa media, e vedrete quanto è importante questo. E qui insomma c'è una differenza notevole, quindi un'arteria che sangra ovviamente sviluppa un ematoma insomma con una velocità maggiore, ma questa però, siccome il flusso è notevole, a volte può fare la stessa cosa, nonostante la forza sia minore, la pressione sia minore, può fare un ematoma a questo livello. Appunto, mi ricordo un ragazzo che aveva avuto un trauma cranico con una frattura appunto qua così anteriore, che poi però si propagava, arrivava fino all'organo, e aveva fatto un attacco, non si vedeva nulla, si vedeva la frattura e basta, perché appunto non è che la manovra viene subito, ci mette un po', no? E quindi nel frattempo, siccome era un po' ritraumatizzato, era stato operato dai chirurghi generali, a un certo punto aveva cominciato a fare una bozza frontale di sangue, ma ovviamente loro pensavano che fosse una cosa post-traumatica, quindi che si fosse gonfiato semplicemente perché aveva preso un trauma, e poi a un certo punto ha cominciato a decadere come coscienza. Allora a quel punto lui stava ricoverato in chirurgia generale, ci chiamano e quindi abbiamo dovuto operare d'urgenza perché appunto abbiamo rifatto un attacco e abbiamo visto che c'era questa ematoma, che si è sviluppato molto lentamente, quindi lì per lì alla prima attacco non era evidente, ma può può metterci del tempo, anche alcuni, anche alcuni metodi appunto temporali ci possono mettere del tempo. Questo, questa fase si chiama intervallo libero. Nel caso del temporale invece la questione è diversa, è che generalmente qui la dura madre, specialmente nel giovane, è scollabile e quindi la pressione dell'arteria riesce a farsi lo spazio e quindi a comprimere. Per esempio negli anziani è raro trovare un ematoma epidurale, è raro, quindi anche se si fratturano qui gli anziani è difficile che si duplicano, perché la dura madre invece è estremamente adesa alla, alla, non si lascia scollare facilmente, quindi questo fa sì che l'arteria si rompe, però viene tamponata dal fatto che non riesce, il sangue non riesce a forzare, nonostante la, la, la pressione non riesce a forzare, per fortuna non riesce a forzare la dura madre. Ovviamente la dura madre deve essere scollata perché l'ematoma occupi lo spazio all'interno del cranio, se non si scolla non occupa spazio, non dà compressione. Ma di queste cose poi le riprenderemo, non è l'ultima. Ecco, quindi vedete come il sistema venoso, vedete le vene, diciamo, sulle vene corticali diventano sempre più grandi e poi si scaricano, vedete, nei semi venosi, questo è più importante, abbiamo detto, poi ci sono anche quelli posteriori e qui confluiscono tutti nel torculare e poi tutti quanti confluiscono appunto nella confluente dei semi, cioè il torculare, qui dentro dove confluisce sia la circolazione venosa superficiale, come vedete qua, sia quella profonda. E poi tutto si scarica attraverso i due semi trasversi, il sigmoide qua, nelle vene giugulari. Perché è importante sapere appunto delle vene giugulari? Perché per esempio ci sono dei casi, anche queste cose successe davvero, cioè successe nel senso che le ho viste io con i miei occhi, e quindi non solo diciamo citate in letteratura, quindi vuol dire insomma succede con una certa frequenza, che gente operata per interventi cervicali, al collo, per i linfonodi, queste cose qua, inavvertitamente vengono ostruite, viene ostruita una giugulare, quell'altra non funziona tanto, è ipoplasica, e quindi il drenaggio dal cervello viene diciamo interessato. Ovviamente siccome ci sono tanti altri cicli collaterali non avviene nulla di acuto, no? Come sapete bene, perché la giugulare è una via comune dove si mettono i cateterini, per esempio, quando uno non c'ha bene si mette il cateterino giugulare. Ma quello che succede è che si rallenta talmente il flusso che si crea un trombo, il trombo risale e blocca poi quel seno lì, questo scarico qui, e questo ovviamente, e questo dà come conseguenza un edema acuto cerebrale. Quindi attenzione a pazienti, per questo cioè, ci entriamo noi centrali, perché pazienti magari che stanno da voi perché hanno fatto svuotamento di linfonodi, ascellari per il cancro del seno e quindi stanno da voi per la riabilitazione e quindi hanno fatto anche lo svuotamento, possono dare una trombosi dei semi intracranici. E questo come si manifesta? Beh, all'inizio con mal di testa e poi ovviamente con una sintomatologia, quindi diciamo, saperlo ti aiuta a dire uno che c'ha mal di testa dopo un intervento del genere, sì, può essere una cefalalgica, però sappiate che può essere una spia per una situazione del genere che può, diciamo, risolversi spontaneamente, perché a volte questi trombi avvenendo sempre con una certa lentezza dà la possibilità, ma a volte invece no, quindi la conseguenza è un edema acuto e quindi o gravissimi danni, emorragie diffuse appunto perché c'è un blocco, cioè come se ci fosse un blocco della circolazione, quindi sangue stravasa dai piccoli vasi, succede all'inizio un edema ma poi delle emorragie diffuse e poi o una grave emisindrome oppure la morte. I trombi venosi saltano tutti contro corrente, infatti le flebiti che danno poi trombosi delle iliache non vengono contro corrente, cioè la corrente va sempre dalla periferia verso il centro. Cioè, sì, ma il trombo una volta che si forma, si continua a formare nei due versi, se dalla parte ostruito quello si accumula comunque. L'importante è che il sangue, io ho detto, il sangue ristagna, quindi se il sangue ristagna, cioè non si. A quel punto lì il flusso è una cosa relativa, perché non c'è più una vera direzionalità, no? Perché il sangue praticamente è quasi fermo, quindi questo è il rischio, no? Non dico che avviene sempre, però è una prevenienza che successa, diciamo, ed ampiamente descritta. È come se il flusso si invertisse, comunque diciamo, c'è una stazionarietà che è peggio che si invertisse. Ecco, un altro concetto importantissimo è che oltre a tutte le strutture che abbiamo visto esterne, ce ne sono alcune interne molto rigide, no? E quindi oltre alle ossa ovviamente del basicranio ci sono anche appunto la falce, che vedete qua. Questo è un disegno che cerca di, è fatto apposta in questo modo per cercare di rendervi la tridimensionalità della situazione. Quindi la falce appunto che è questa, che divide i due emisferi cerebrali, no? E poi confluisce nel tentorio, che appunto separa la cervelletto, cioè la fossa canina posteriore, dalla parte sovratentoriale, cioè dagli emisferi cerebrali. E che cosa sono? Che tessuto è? Come ve lo potete immaginare? Beh, è un tessuto che ha la consistenza della tela di tamburo, per esempio, della tela di un tamburo, che è un tessuto abbastanza rigido, ed è per questo che appunto, come vedete, al centro del tentorio c'è questo iato che si chiama iato tentoriale, che appunto è quello che consente il passaggio del tronco cerebrale, no? Quello che da qualche parte deve passare. E perché è così importante? Appunto perché sempre nei traumi il cervello, nonostante si sia abbastanza libero di fare un movimento antero-posteriore, il movimento laterolaterale è meno, meno libero, diciamo, è più vincolato, perché appunto c'è questa struttura mediana che impedisce, diciamo, grosse traslazioni del cervello. Ma l'elemento più diciamo negativo nella patologia è che quando ci sono dei coni di pressione, cioè si formano degli ematomi, comunque dei coni di pressione che vanno dalla parte superiore del cervello verso il basso, la presenza di questa struttura fa sì che la parte mediale degli emisferi, che si chiama giro del cingolo, che sta proprio a ridosso di questo bordo, ernia al di sotto della falce. E erniando al di sotto della falce, ovviamente si auto-esclude dal circolo, perché ovviamente c'è una compressione sulla propria vascolarizzazione, perché la falce, appunto, abbiamo detto, è una struttura rigida. Quando questa parte dell'emisfero ernia al di sotto, questa comprime la vascolarizzazione e quindi quella parte va in necrosi e poi innesca tutta una serie di fenomeni gravissimi. Cioè, quando, ovviamente questa è una delle ernie cerebrali. L'altra ernia cerebrale è quella della parte sempre mediale del lobo temporale, appunto attraverso questo bordo del tentorio. Anche qui c'è un cono di pressione, per esempio, dovuto a un ematoma epidurale, che spinge il temporale verso la parte mediale del temporale, che si chiama uncus, ernia attraverso quel forame e va a comprimere che cosa che ci abbiamo detto nel forame? Il tronco. Le conseguenze ovviamente drammatiche, e poi le vedremo. L'ultimo tipo di erniazione è quello che avviene, poi naturalmente li renderemo, ma adesso per completezza, avviene da parte di un ematoma, di un tumore che sta nella fossa canina posteriore, quindi nel cervelletto antrocerebrale, che ovviamente non risente, diciamo, tanto della pressione sovratentoriale, perché appunto c'è questa separazione, no? Poi c'è il tronco in mezzo, ma le pressioni che aumentano a questo livello hanno meno possibilità, diciamo, di sfogo, di espansione, anche perché appunto davanti c'è il tronco cerebrale, quindi sono molto spesso rapidamente sintomatiche, e quello che può succedere è che la parte inferiore del cervelletto, per un aumento di pressione nella fossa canina posteriore, che è appunto questa regione che sta sotto il tentorio, la parte inferiore del cervello, che sono le tonsille cerebellari, erniano attraverso appunto il forame. E questo, come conseguenza, c'è una compressione non del tronco cerebrale, ma del passaggio bulbo-midollare, che sapete che è estremamente importante, non solo per per la funzione motoria, ma anche per le funzioni essenziali, tipo appunto quella respiratoria, quella cardiaca, che c'è, sono i centri, diciamo, degenerativi, sono lì. Ecco, qui, ecco, vi dovete immaginare di trasferire appunto quella struttura all'interno di qua, e il tentorio ovviamente è, si va a inserire proprio sul profilo delle rocce pedrose, e poi appunto termina proprio qui sui tubercoli posteriori, sui rinoidi posteriori, e questo ovviamente lascia questo spazio per appunto il tronco cerebrale che è appoggiato qui a questo livello. Il tronco cerebrale appunto vi dovete immaginare, perché è sempre disegnato diciamo come se fosse una specie di gambo, no? Che esce dagli emisferi cerebrali. In realtà ve lo dovete immaginare sdraiato, il tronco cerebrale rispetto agli emisferi è così, non è così, non c'ha questa, è così, ed è sdraiato praticamente su questa zona qui, cioè è importante che, per memorizzarlo, e questo vi spiega perché appunto una erniazione di questa parte mediale del lobo temporale, che appunto deborda da questa parte, va a interessare il tronco cerebrale che appunto sta qui. Insomma, il tronco cerebrale interessa altre strutture, poi ne parleremo quando parleremo dell'MC. Questa è una diapositiva familiare, no? Tutti quanti la immaginate, che dimostra che cosa? Tutto, a parte la suddivisione nei vari lobi cerebrali, ma poi anche diciamo, le varie etichette descrivono alcune zone importanti, no? Queste sono cose che ovviamente voi dovete conoscere, perché insomma fanno parte delle cose con cui lavorate. Io insomma, mi limito a ricordarvi il piede della certezza circonvoluzione frontale, che è l'area di nell'emisfero sinistro di Broca, tutto. Poi il giro angolare e il giro sovramarginale, sempre nell'emisfero dominante, che sono l'area di Wernicke, che appunto è la zona, diciamo, della comprensione linguistica, e poi di tante altre cose, della capacità di lettura, di scrittura, della capacità di contare, della distinzione destra-sinistra, un sacco di queste cose qua. Poi queste parti superiori temporali, insomma, io sono musicofilo, insomma, mi interessa particolarmente, sono i giri di Escher, dove appunto c'è, che a volte i nostri pazienti, noi quando sono arrivato io, insomma, bastava che dopo l'intervento tenessero le braccia così, che muovessero gli occhi, per noi l'intervento era andato bene. Adesso le cose sono molto cambiate, insomma, adesso si fanno tutti i test sofisticati per capire, insomma, perché appunto dei pazienti che appunto giudicati degli ottimi risultati, poi quando uno va a parlare con le famiglie, la moglie dice: ma mio marito da quando ha fatto l'intervento non lo riconosco più, ha cambiato il carattere. Ora è vero che di per sé il trauma dell'intervento, oppure il trauma in sé così, può ovviamente cambiare il carattere di una persona, nel senso che gli cambia il senso delle proporzioni, sia in meglio ma anche in peggio del significato delle cose autentiche dell'esistenza, oppure al contrario invece lo fa diventare uno spaventato, che ha paura di qualsiasi cosa, eccetera. Quindi il trauma di per sé può rappresentare sia il trauma dell'intervento, sia il trauma in generale, però a volte è proprio la violenza dell'intervento chirurgico che è una violazione, comunque. Quindi adesso cambiamo completamente l'approccio. Una volta c'era un tumore cerebrale praticamente spacciato, per cui già appunto se stava in piedi, muoveva gli occhi, eccetera, rispondeva, sembrava. Adesso invece no, insomma, quindi adesso siamo costretti giustamente a fare degli approcci sempre più limitati, sempre risparmiando la corteccia, ma quella tanto non serve, insomma, sappiamo che è ridondante la corteccia cerebrale, però cerchiamo comunque di preservarla, e appunto in particolare molte persone, ovviamente se uno non gli interessa la musica, non si rende conto, ma per esempio uno che fa il direttore d'orchestra, se gli lesiona questa zona, può non poter fare più il proprio mestiere. Apparentemente non ha danni, però cioè, alcune cose, diciamo, essenziali, l'armonia, le cadenze, queste cose qui possono essere interessanti. Ma chi è che va a esplorare questo nei pazienti? Voi per esempio potreste farlo, perché questo è uno dei vostri compiti, ma spesso viene considerato, adesso vi do degli pins, come si dice in inglese, gli oggetti, ovviamente sono come i semi che uno butta, poi se trova terreno fertile matureranno. Però sappiate che c'è pochissimo su questo, poco. Ovviamente adesso con la risonanza magnetica funzionale si stanno facendo tanti studi anche appunto su funzioni che prima erano difficilmente indagabili, ogni tanto l'avrete scritto sul giornale, perché ovviamente sono cose più, diciamo, più eclatanti, che fanno impressione, e quindi magari di quella indagine che dice che tanti maschi studenti visti quando si presenta una bionda reagiscono meglio che quando si presenta una mora nell'emisfero, diciamo, nelle alte latitudini e viceversa, visti con la risonanza magnetica funzionale, cioè si vede che queste alcune zone del lobo limbico eccetera entrano in un'attività metabolica maggiore quando vengono presentate certe cose eccetera. Ma comunque ci sono tanti studi, in tanti campi diversi, ovviamente questi sono quelli, diciamo, che fanno più audience, insomma, che colpiscono la fantasia, però ecco, sappiate che nel vostro campo voi, quando appunto arriverete, avrete a disposizione, nel senso che avrete dei dati, avrete la possibilità di acquisire dei dati su funzioni più sofisticate, sulle quali fino adesso non si è, che però vengono interessate dai traumi e dalle alterazioni, diciamo, dei tumori e degli interventi chirurgici, sulle quali però fino adesso si è battuto poco, perché erano poco conosciute, anche poco verificabili. E qui invece è importante che voi quindi sviluppiate, che qualcuno, insomma, sviluppi dei metodi anche di riabilitazione di questo tipo qua. Per esempio, di riabilitazione musicale non ha parlato mai nessuno, per esempio dovrebbe essere qualcuno di voi per specializzarsi, e mentre prima non si poteva tanto verificare i progressi, adesso si potrebbe, perché con la risonanza magnetica funzionale, perché voi potreste dire sì, vabbè, se quello prima solfeggiava adesso non solfeggia più, se io mi invento una cosa quello dopo risolfeggia, beh, non siamo a questo livello, no? È ovvio. Quindi, ma se il metodo è giusto e voi gli potete fare anche qualche piccolo passo avanti, magari quello non solfeggia, però fa qualche passo avanti che magari con la risonanza magnetica funzionale è verificabile, cosa che prima non era possibile. Quindi ci sono degli enormi margini su cui se ovviamente se vi interessa, certo, potete tranquillamente fare invece quello che fa, quello che hanno sempre fatto tutti gli altri, non vuole sapere niente, timbra il cartellino, va lì, fa la sua cosa, fa il suo trattamento, ogni po' non guarda neanche il faccio al paziente, fa il suo trattamento e poi se ne va. Naturalmente alcuni di voi faranno così, questo è vero. Però ecco, mi auguro che questi miei input facciano trovare a qualcuno la voglia di non ripercorrere sempre le solite strade, quelle che hanno fatto tutti, eccetera, insomma, fare qualche innovazione, che però deve essere confortata dai dati, non dovete essere quelli che dicono fanno lo stregone, perché adesso provo a mescolare, invece prima mescolavano queste 15 erbe, ora provo a mescolarne 16, va, vediamo che succede. Non è così, insomma, la scienza non funziona così. Quindi dovete prima ovviamente conoscere, poi una volta che conoscete, dire allora vediamo che cos'è che manca in questo caso, che funzione svolge quella zona che io so che è interessata e danneggiata, come posso cercare di ripristinare una via alternativa. Esistono vie alternative, cioè se è documentato da qualche parte che esiste un fascio che magari potrebbe ricariare quello lì, lo posso sviluppare in qualche modo perché magari fa qualche altra funzione, perché così si lavora in alcuni casi, e attraverso queste cose poi il riscontro di un altro esame, appunto, che non sia, perché sennò è troppo facile giudicare da se stessi il proprio lavoro, no? Ci vuole qualcun altro che lo giudica, possibilmente con una metodica alternativa per vedere se le vostre ipotesi sono giuste. La scienza funziona così, mica è una cosa semplice, sennò tutti quanti inventarsi qualcosa ogni giorno. Ecco, qui vedete, insomma, abbiamo richiamato, insomma, le vie di associazione che sono importantissime, e quindi ecco, vi richiamo alla conoscenza profonda di questi aspetti, diciamo, neurofisiologici e anatomici, perché fanno parte del vostro lavoro, nel senso che sì, potete anche dimenticarveli poi e fare routine, però è importante conoscervi per capire che cosa state facendo e per capire anche se volete migliorare voi o se arriva qualche miglioramento dall'esterno, saperlo anche giudicare. Cioè, arriva per esempio, dice, tizio per esempio ha pubblicato questa nuova metodica eccetera, voi potete anche scegliere di farla passivamente oppure cercare di capire se questi principi, cioè queste conoscenze dentro di voi non sono presenti, anche se in quel momento non le richiamate, però quando voi leggete vi vengono alla mente, no? Perché non è che tutti i giorni dovete ricordarvi il fascicolo arcuato, che collega, può darsi ovviamente non è vostra competenza, però questa conoscenza, vi sto dicendo perché alcuni di voi, cioè io le persone diciamo di un certo livello tra di voi che si sono, hanno sviluppato una conoscenza, per certi aspetti sono superiori a quelle che c'è possibile, che poi abbiamo noi per alcuni, in alcuni campi specifici, proprio perché si sono estremamente specializzati, quindi su quel campo hanno una conoscenza veramente notevole. E questo differenzia una persona, io quando ho una persona con deficit del linguaggio, specialmente se è una persona diciamo colta, che ha un livello diciamo di prestazioni notevole, mica la mando da una linguista qualsiasi, cioè la mando da una persona che io so che ha una competenza diciamo di conoscenze, ma anche di adeguamento a quello che succede, perché adesso vi dico una cosa, ma quando voi tra due anni, tra tre anni farete la professione, magari molte cose potranno essere anche completamente cambiate, no? Quindi se uno non si tiene aggiornato, non legge ogni tanto le riviste o comunque almeno questi siti diciamo internazionali, dove quindi fondamentale ovviamente la conoscenza del cinese, per un po', ancora per un po' di anni sarà così, poi probabilmente sarà il cinese, ma quindi per tenervi aggiornati sulle cose, questo è fondamentale, quindi non pretendo che vi leggiate tutte le riviste di neurologia o di neurofisiologia, perché ovviamente non siamo neanche noi, insomma, perché non sarebbe possibile, sono veramente tanti, però scegliete alcuni pochi argomenti sui quali tenervi aggiornati, pochi argomenti sui quali ogni tanto andate a leggere, che hanno detto, andate sui siti internazionali appunto di fisioterapia, eccetera, e lì dite hanno fatto questa cosa, no, andiamo a vedere un po', e poi la giudicate, perché se avete le conoscenze la potete anche, cioè, potete anche dire, che mica che una cosa è pubblicata su JAMA o su Lancet, per forza è oro colato, se voi andate a guardare 10 anni fa quando hanno scritto su Lancet, 20% di cose le potete buttare dalla finestra, nonostante fossero scritte su Lancet, perché ovviamente gli errori si fanno anche da parte di quelli bravi, e poi le conoscenze si ricambiano, si accumulano, quindi una cosa vera oggi tra due anni potrebbe non essere. Chi non lo conosce? Vabbè, questo è un cervello vero, diciamo così, ovviamente di un reperto autoptico, però per vedervi come si presenta, vedete questa traslucenza che c'è dovuta appunto alla via madre, quindi ricordatevi che l'igor, cioè lo spazio subaracnoideo, bagna appunto tutta questa regione, quindi c'è una regione virtuale, diciamo così, tra la dura madre e la via madre, che appunto è la zona del ligure che si chiama spazio subaracnoideo. Ecco, importantissimo lo spazio subaracnoideo, e lo vedremo quanto è importante. Questo lateralmente come si presenta, vedete appunto i lobi temporali, questo è il lobo temporale, questo è il cervelletto. E qui da sotto vedete appunto il tronco cerebrale è parzialmente reciso, i lobi cerebellari, queste sono le famose tonsille, queste vedete qua, questa è la parte basale del lobo temporale, questo è il polo, i lobi frontali, queste invece sono sezioni. Perché ve le faccio vedere? Perché appunto, sempre per darvi un'idea tridimensionale, e anche perché TAC e risonanza magnetica vi fanno vedere le cose così, in queste sezioni qua. Ovviamente questa è una sezione coronale, quindi taglia il cervello in questo senso qui. Questo lo faccio vedere anche per vedere che le forme dei ventricoli cerebrali cambiano a seconda del taglio, quindi la forma dei ventricoli è particolare, uno si deve, magari la prossima volta mi devo ricordare di portarvi un calco, che ho sulla mia scrivania, un calco di ventricoli cerebrali, perché se uno non vede il calco non si può rendere conto bene. Quindi i ventricoli laterali, vedete, il terzo ventricolo al centro, che comunica con i ventricoli laterali attraverso un piccolo foro che si chiama forame di Monroe. Tutte le cose che vi dicono hanno un senso, perché hanno un significato, dovete conoscerle, perché. Poi qui vedete appunto i lobi della base, il lobo temporale, vedete appunto come la parte terminale del lobo temporale, vedete che tenda, no? Quasi un pochino a... questo sta proprio su quel famoso davanzale, no? Che è il tentorio, che proprio guarda sul tronco cerebrale. E poi ovviamente vedete che ci sono alcuni solchi, per esempio noi per arrivare a un tumore cerebrale che sta qui non attraversiamo la corteccia in questo senso qua o da lì, no? Sfruttiamo il solco in maniera che noi fino a qui non incontriamo corteccia, la corteccia sta qui, eh? La vedete, no? È questa la corteccia, la vedete, la seguite, no? Quindi se c'è un tumore qui da raggiungere, io sfrutto qui, poi qui attraverso questo, devo attraversarlo per forza questo pezzettino di corteccia, però ovviamente lo spazio che io attraverso è molto inferiore, il danno che faccio è molto minore rispetto a quello che farei se passassi da qua o se passassi da qui sopra, no? Quindi si sfruttano i solchi cerebrali, quindi tra le circonvoluzioni, per raggiungere anche regioni profonde. A volte appunto per arrivare a tumori di questa regione passiamo appunto attraverso i due emisferi, quindi tra i due emisferi, quindi capite quanto anche da parte, diciamo, del chirurgo ci sia questa necessità di risparmiare il più possibile la corteccia cerebrale, no? E la corteccia, ma naturalmente anche le fibre di associazione, no? È ovvio che inevitabilmente poi si possono essere interessate, quindi più piccola è la strada che io faccio, generalmente è meglio, infatti noi operiamo col microscopio. Questa è un'altra sezione che vedete passa attraverso il tronco cerebrale, parte anche del cervelletto, e vedete come apparentemente si modifica tutto, no? E questa è una regione appunto dove c'è la capsula interna, l'area motoria che sta qui, dove confluisce tutta la zona della corteccia frontale, appunto quella della regione motoria, no? La corteccia frontale posteriore, quella che sta al di qua e al di là della cessura di Rolando, vi ricordate, no? L'area motoria sta pre-Rolandica, l'area sensitiva post-Rolandica. E questa è una sessione posteriore, vedete come è ancora diversa, no? Anche i ventricoli come sono cambiati, no? Proprio perché appunto c'è una modificazione continua. Queste sono le sessioni coronali. Poi naturalmente le sessioni la risonanza magnetica fa sezioni coronali, sezioni assiali, quindi taglio così, e poi sezioni sagittali, quindi farò vedere i tagli in questo senso. Poi ovviamente che altro c'è dentro il cranio? In particolare nello spazio subaracnoideo, ricordatevelo, decorrono i grandi vasi cerebrali, quindi le due arterie vertebrali confluiscono a formare la basilare, che decorre proprio sul ventre del tronco, quindi proprio addossata al tronco cerebrale, e poi si divide nelle due cerebrali posteriori, che vanno a irrorare la parte posteriore del cervello, quindi i lobi occipitali, quindi la visione, no? Interessata alla visione. Ovviamente la cervella posteriore però irrora anche una buona porzione del tronco, quindi non è salutare interrompere la cervella posteriore se il paziente non si sveglia. Il circolo posteriore che vi ho appena descritto comunica col circolo anteriore, formato appunto dalle due carotidi interne, le carotidi interne che arrivate dentro il cranio danno origine a varie arterie, poi adesso non le descrivo tutte, insomma la cosa importante che voi sappiate è che la naturale continuazione della carotide interna è l'arteria cerebrale media, che è questa qua. Quando c'è una trombosi acuta dell'arteria cerebrale media, l'infarto che consegue praticamente è un infarto emisferico, per dirvi quanto è importante questo, praticamente scampa solo una piccola parte del frontale qua, una piccola parte degli emisferi e la parte più mediale, perché quella appunto è erodata dalle cerebrali anteriori, che sono invece un ramo, come potete considerarlo un ramo della cerebrale, dell'emisfero della carotide, quindi la carotide si biforca e dà come ramo principale l'arteria cerebrale media, che è la più importante come flusso, eccetera. Non importante nel senso, perché anche se io interrompo la cerebrale anteriore il paziente può morire, eh? Non è che queste sono tutte arterie fondamentali. È nel senso meno importante come flusso, come volume di sangue che porta, e anche come estensione di tessuto cerebrale che errora, però insomma, non è che chiudere la cerebrale anteriore è lo stesso potenzialmente mortale. E questo circolo anteriore è unito al circolo posteriore attraverso due arterie che possono essere grandi, piccole, inesistenti, può essercene una e l'altra no, che si chiamano comunicanti posteriori. Poi le due cerebrali anteriori, come vedete, questa di destra e questa di sinistra, si uniscono al centro con un'altra arteria che può essere un tratto brevissimo, addirittura queste due arterie possono essere praticamente addossate, che si chiama invece comunicante anteriore. Quindi così abbiamo chiuso un cerchio, anzi un poligono, che si chiama poligono di Willis. E questo fa sì che in linea teorica, se il poligono di Willis è costituito così come lo vediamo qui, così ben definito, in teoria se io interrompo il flusso nella basilare qui, in teoria il sangue può arrivare dal circolo anteriore e quindi le cerebrali posteriori ricevere comunque attraverso questo sangue dal circolo anteriore. Se io interrompo una carotide, il sangue a questa cerebrale media mi può arrivare dal circolo posteriore e parte dal circolo dall'altra parte, perché appunto c'è questa comunicazione. In realtà questa situazione non è che sia sempre così. C'è un'estrema variabilità anatomica nella configurazione delle arterie cerebrali. Tanto per farvi un esempio, un po' di anni fa viene ricoverato in neurologia un ragazzo, un pompiere, 24 anni, stiamo parlando di un anziano, 24 anni, con un ictus. Ictus a 24 anni, un atletico, poi pompieri si fanno arrabbiare, saltano, fanno tutto un training particolare, non è che stanno seguiti su un ufficio. Fa un ictus però reversibile, quindi questo fa un'emiparesi modesta, transitoria, poi si riprende e nel frattempo lo stavano studiando. Quindi era entrato da pochi giorni, la mattina davanti allo specchio, mentre sta facendo la barba, cade. Cioè si perde conoscenza e cade. Gli fanno tutta una serie di esami, una serie di accertamenti, dalla TAC emerge un notevole ematoma intracerebrale, voluminoso ematoma intracerebrale, nella zona dove lui aveva avuto, presumibilmente, perché appunto si vedeva dalla clinica, anche se era poi stata lieve, questa ischemia precedente. Lo operiamo, lo prendiamo per i capelli, perché grossissimo, con grave compressione, e lui insomma ce la fa, recupera e cominciamo poi a studiarlo, perché è successo questo, un paziente così giovane che fa prima un'ischemia e poi in quel territorio lì fa un'emorragia. Generalmente noi quando succedono queste cose siamo già abbastanza orientati, cioè diciamo questo c'ha una malattia del connettivo delle arterie, per cui le arterie si danneggiano, una malattia congenita ovviamente, quelle ereditarie, le malattie del collagene, sono già abbastanza categorizzate, per cui questo praticamente ha fatto un'alterazione della rete arteria che ha creato una trombosi all'inizio, perché appunto si forma qualcosa all'interno della parete dell'arteria, per cui lì si accumulano le piastrine, fa una trombosi, eccetera. E poi, quando, diciamo, chiaramente essendo giovane, non è che ci sono tanti circoli collaterali, quindi poi questa arteria si è riabilitata, nel senso che si è arrivato e il sangue ce n'è arrivato, perché appunto in quel caso quello che vedremo, che si chiama autoregolazione cerebrale, non ha funzionato e il sangue ci è arrivato invece molto diverso, è come se fossero stati aperti tutti gli shunt che normalmente sono, che regolano appunto l'afflusso di sangue a livello della periferia del cervello. Improvvisamente ce n'è arrivato tanto e questo periaflusso improvviso ha creato una rottura con l'emorragia successiva. Facciamo tutte queste indagini, zero. Cioè non viene fuori niente, facciamo biopsia della temporale per vedere le arterie. Continuiamo a studiarlo, finalmente fa una PET, che allora non era così disponibile, che adesso insomma c'è dappertutto. Allora all'epoca ce n'erano tre in tutta Italia. C'è uno studio, Positron Emission Tomography, tomografia emissione di positroni, uno studio che serve a studiare il metabolismo cerebrale. E dalla petta che cosa vediamo? Vediamo una cosa incredibile, cioè che tutto l'emisfero dove era avvenuto l'ematoma, tutto quanto, quindi anche quello irrorato in teoria da altre arterie, è ipometabolico. Cioè immaginate come un emisfero lo vedete rosso e l'altro blu, tutto blu. Cioè tutto come se lì ci fosse un'attività molto ridotta. Allora a quel punto gli facciamo quello che adesso sarebbe facile fare, all'epoca non c'era la disponibilità della risonanza così come adesso, gli facciamo fare un angio RM e vediamo che lui semplicemente il circolo destro non ce l'aveva. Tutto quanto dipendeva da una piccola arteria qui, tutto il resto non si era formato, proprio non ce l'aveva dalla nascita. Quindi era quindi una persona che viveva su una soglia ischemica, però lui non l'aveva mai superata, ovviamente con la gioventù, con la cosa, cioè, è bastato un niente, perché appunto tutte queste arterie erano, che tra l'altro questa non c'era proprio, questa parte anteriore non c'era, questa qui era ipoplasica, l'arteria cerebrale era un filino praticamente, e tutto dipendeva da questa piccola arteria comunicante che da dietro gli portava il sangue, finché fino a un certo punto arretta, a un certo punto questo... Poi comunque lui poi ha ripreso a trattare la mano, che non ha ripreso bene, che non aveva potuto ricominciare a fare quello che faceva prima, però insomma lui ha ripreso bene la coscienza, a camminare, eccetera. Però lui adesso vive con questa situazione, lui sa che la sua pressione non può scendere sotto un certo livello, come può capitare a noi che una mattina ci svegliamo, ci abbiamo 90 di massima, vabbè, se ci sentiremo un po' stanchi, un po' fiacchi, questo è il massimo che ci può succedere, oppure se cambiamo posizione ci vengono un po', improvvisamente ci vengono le ombre sugli occhi, ma non è che ci viene un ictus, no? Ecco, invece lui ci aveva una situazione di questo genere che però ovviamente nessuno poteva immaginare che avesse. Ecco, per dirvi, questo è un estremo, però per dirvi che c'è un'estrema variabilità, alcuni hanno tre cerebelli anteriori, alcuni ce l'hanno una sola, qualcuno ha due comunicanti anteriori, cioè quelle che passano parallele, altri hanno per esempio la cerebrale media che si sdoppia e poi si riunisce, quindi fa una specie di gigantesco occhiello. Dice, ecco perché la chirurgia degli aneurismi cerebrali, cioè delle malformazioni che avvengono su questa arteria, è una chirurgia difficile, perché è una chirurgia che si fa pazienti spesso giovani che hanno avvolto una situazione anche abbastanza buona dal punto di vista clinico e però hanno una variabilità, per cui quando uno va lì non è che si trova bello il poligono di Willis come è descritto qua, perfetto, le cose sono sempre, cioè non c'è un paziente uguale all'altro, non ce n'è uno, qualcuno c'è una cerebrale media più piccola, più grande, che fa due curve, che va in alto, va in basso, entro certi limiti ci sono delle costanti, però poi lì non si... e quando c'è un aneurisma, cioè c'è qualche cosa, c'è una sacca che ha sanguinato, quindi ha modificato l'intorno all'anatomia, andare lì a spiluccare senza rompere l'aneurisma, insomma, è una cosa delicata, ecco, dal punto di vista di capire, la chirurgia degli aneurismi è una cosa, insomma, molto delicata. Ecco qui come si presenta, immaginate che appunto che questo tronco cerebrale è schianato sul basso del cervello, ci vedete l'ipofisi, e questo è per farvi vedere tutti i nervi cranici fondamentalmente, quindi l'altro elemento importante sono i nervi cranici. E anche questi ovviamente è importante che li conoscete, e allora andiamo a numerarli. Allora, allora, i nervi olfattori, che vedete qua, poi i nervi ottici, secondo nervo cranico, nervi ottici che si uniscono nel chiasma, vedete questa stretta prossimità che c'è tra ipofisi e chiasma, vista da sotto, quindi ricordatevelo questo perché poi sarà importante e vedete anche la prossimità con la carotide, vedete il carotide, nervo ottico, l'ipofisi e il nervo oculomotore, questo è il terzo nervo cranico, anche questo è fondamentale, guardate anche la prossimità, poi questa è un'altra cosa importante, tra il terzo nervo cranico e l'uncus, la parte mediale del lobo temporale, anche questo è importante, quindi prossimità con il cerebrale posteriore e il terzo nervo cranico, quindi questo è importantissimo, lo vedremo poi nei nervi cerebrali. E poi ci sono appunto gli altri nervi oculomotori, quindi quarto inoltre al terzo, poi il quarto e il quinto nervo cranico, che vedete il quinto lo distinguete perché c'ha tre radici, il trigemino, no? C'ha tre radici, una diciamo oftalmica, una mascellare e una mandibolare, no? E queste escono appunto da quei fori che vediamo sulla base del cranio. Poi dopo il quinto c'è il sesto nervo cranico, il nervo abducente, un altro nervo oculomotore, quindi i nervi oculomotori sono il terzo nervo cranico che fa praticamente quasi tutto. Poi il quarto nervo cranico che comanda l'obbligo superiore, quindi porta guarda verso l'alto e lateralmente, e poi il sesto che è l'abducente che comanda il retto laterale, quindi quando l'abducente è deficitario il paziente avrà lo strabismo convergente, quindi perché predominerà quello che funziona, quindi se uno c'è il terzo nervo cranico che funziona, il retto interno quindi funziona e tira l'occhio verso la sua parte perché il sesto è deficitario, quindi mentre invece un danno dell'oculomotore dà uno strabismo divergente perché a quel punto il sesto che funziona tira il retto laterale e il retto invece mediale non funziona perché è quello controllato dal motore, quindi avremo uno strabismo divergente oltre a altre cose, quindi queste sono le cose più evidenti, vedete subito che ce l'ha. E vedete che appunto il sesto nervo cranico decorrendo proprio sulla base cranica, decorrendo proprio sulla base, è quello, lo vedete qua, no? È quello che spesso risente di due fatti fondamentali. Quando aumenta la pressione intracranica e quando ci sono dei traumi cranici. Naturalmente anche il terzo nervo cranico, vedete che non è che sta proprio, anche lui sta abbastanza sulla base cranica, sta molto vicino all'osso del clivus. Quindi per esempio se qualcuno si intende di proto musica rock e quindi conosce David Bowie per esempio, la copertina di uno dei suoi dischi che lui ha preso al primo piano, si vede che lui ha una pupilla di un diametro e un'altra di un diametro molto maggiore, no? Quindi ha un deficit del terzo nervo cranico, qui le versioni sono varie, qualcuno dice durante una rissa, insomma comunque è un trauma cranico perché qualcun altro dice in macchina, un incidente, eccetera, ma non c'è accordo su questo, ma lo stato di fatto è che lui fu in coma per diverse settimane in ospedale, quindi ha avuto un trauma cranico. Poi perché l'hanno menato, perché ha sbattuto la testa, insomma non si sa, però. E come conseguenza di questo trauma cranico lui ha avuto una lesione del nervo oculomotore permanente, quindi gli rimane poi il nervo oculomotore oltre alla motilità le fibre più esterne, perché ovviamente non ha avuto una lesione, ha avuto una lesione solo da non è che si è strappato, no? E la conseguenza è quella che appunto siccome le fibre più esterne sono quelle del costrittore dell'iride, quelle sono state lesionate, quindi ha questo da una parte l'occhio che ha un iride dilatato, perché appunto il costruttore dell'iride non funziona più. Il costruttore dell'iride che passa insieme, che è controllato dalle fibre più esterne del nervo oculomotore. A questo queste cose è giusto per un po'. Magari ve la ricordate pure a me, spero non è che vi ricordate solo questo. Allora. Quindi la cosa qui, ecco, questa cosa a proposito mi giunge il fatto che però dovete stare attenti, quando uno è in perfetta coscienza viene da voi e ha una misocoria pupillare, cioè questa appunto che c'ha del volo, quindi una pupilla normale e un'altra dilatata, non è che dica corriamo subito al pronto soccorso che stai male, cioè qualcosa che... No, perché è chiaro che questa è una cosa, ma diverso è se trovate una misocoria pupillare in uno che ha un difetto di coscienza, un'alterazione della coscienza, allora lì invece significa che è interessato l'oculomotore qui e anche il tronco cerebrale, quindi vuol dire che qualche cosa che sta succedendo qui, e quella è molto, molto allarmante, quello invece deve portarlo di corsa in ospedale. Bene, quindi il fatto che ci possono essere delle lesioni si stabilizzano, come anche a volte, appunto, stavo dicendo, il sesto nervo cranico è particolarmente esposto perché è stato proprio sulla base, e per esempio a volte può essere una conseguenza, questo l'ho visto più volte, quando gli anestesisti fanno, questo interessa le ragazze future mamme, gli anestesisti fanno l'epidurale per esempio, no? Per il cesareo o per il parto, semplicemente per non far sentire dolore, a volte deliquorano troppo, cioè fanno l'epidurale, fanno uscire un po' di liquore e poi dovrebbero fare, no, l'anestesia, a volte si deliquora troppo, oppure a volte involontariamente, nel senso che il liquore non solo esce dal lago e quindi quando loro fermano col catenino poi si ferma tutto, ma a volte esce anche intorno al lago. Se uno ha fatto troppo, facendo la puntata lombare, fa troppo gioco, la dura madre non è che si buca, si fessura, sì. E allora il liquore non solo esce lungo, attraverso l'ago, ma esce anche intorno, e quindi uno può perdere anche un po' di liquore quando sta la paziente mentre sta facendo la procedura. Quello che è successo è che questa deliquorazione fa come se facesse acquattare tutto il tessuto cerebrale sulla base, provocando una distensione del sesto nervo cranico. Queste dopo un po' manifestano un deficit bilaterale del sesto nervo cranico, quindi fanno, cioè, uno strabismo convergente, pensate che bello, uno dopo che ha partorito la trovano così, ovviamente disperati, no? Generalmente è reversibile la cosa, il liquore si riforma, la cosa si tampona, però qualche volta, almeno una parte non è stata reversibile. Quindi, diciamo, aumenti di pressione, no? Improvvisi, oppure in questo caso diminuzioni brusche della pressione intracranica, iatrogene, possono dare questo deficit del sesto nervo cranico, temporaneo generalmente, ma a volte invece permanente, quindi poi viene da voi a farvi riabilitare, da uno di voi che si specializzerà in questo tipo di riabilitazione, e quindi anche questo è importante saperlo. Poi c'è il settimo nervo cranico, che è il nervo che controlla la mimica facciale. Ricordatevi che appunto il settimo nervo cranico può essere interessato in varie patologie di tipo periferico, per esempio la cosiddetta paralisi a frigore, che probabilmente è una cosa di origine virale, cioè gente che improvvisamente si paralizza, però la paralisi periferica è una paralisi totale, cioè una paralisi che riguarda anche l'occhio, la fronte eccetera, mentre una paralisi centrale, quella che è dovuta per esempio a un ictus, è una paralisi invece che non riguarda la parte superiore, quindi arriva fino a qua, questa parte superiore, no, perché questa parte superiore, fronte e parte superiore delle palpebre, ha un'innervazione crociata, mentre invece quella che viene dalla, che è centrale, non è crociata, quindi a livello periferico abbiamo una paralisi globale, totale. Quindi quando c'è una paralisi di tutto, quindi qualche persona, voi dite, chiudi gli occhi e invece non ci riesce, l'occhio rimane semiaperto, per quella è una paralisi periferica, quindi è sicuro che la lesione avviene a valle del corpo cerebrale. Poi che altro è? Quindi poi dopo il settimo, che è una brutta paralisi, però diciamo che a parte fa scolare la saliva o le lacrime, così, insomma, ed essere esteticamente molto deformante, però diciamo, non è che rappresenta un problema per la vita, insomma. Poi invece c'è l'ottavo nervo cranico, il nervo, come sapete, acustico-vestibolare, che è ovviamente interessato nel nostro caso, insomma, da alcuni tumori benigni che si chiamano schwannomi, e che sarebbe fondamentale, quindi tumori che vengono dalla cellula di Schwann, appunto, che sono le guaine che producono la mielina, della porzione vestibolare. Perché ve lo dico? Perché purtroppo gli schwannomi vestibolari vanno diagnosticati presto. Perché questo spazio qui, cioè tra, diciamo, Coro Acustico non si vede tanto bene perché appunto c'è, manca la Rocca Pedrosa, ma insomma la Rocca Pedrosa sta qua, quindi all'interno della Rocca Pedrosa sbuca il coro acustico interno, dove praticamente passa appunto, passa il nervo acustico e il nervo vestibolare. Il tumore nasce lì, proprio all'interno del coro acustico interno, e la distanza che c'è tra il coro acustico interno e il tronco cerebrale è in media circa 17 mm. Quindi sarebbe opportuno fare una diagnosi prima che il tumore superi i 2 cm, perché poi che succede? Poi comincia a innicchiarsi nel tronco cerebrale. Allora, fino a quel punto operarlo è una cosa abbastanza, oppure si può usare una forma particolare di radioterapia. Ma quando invece comincia a diventare superiore ai 2 cm e mezzo, 3 cm, si innicchia nel tronco e diventa tutto un altro discorso. Diventa una cosa seria. Non hai capito che hai fatto così avanti? Allora la diagnosi precoce perché vi dico che, perché vi sto raccontando questa cosa? Perché la sintomologia dello schwannoma sono gli acufeni all'inizio. Quindi uno ha dei ronzii, degli scrosci. E quindi allora, a questo punto non pensare tutti quanti di avere gli schwannomi, ma ovviamente è una cosa persistente che contemporaneamente sottrae un po' di dito. Allora dite, beh, insomma uno va dall'otorino, l'otorino fa la diagnosi. Dovrebbe essere così, dovrebbe essere così. Ma noi vediamo costantemente, continuamente, pazienti, lo dico anche a voi, pazienti seguiti per anni, cioè 2-3 anni dal mio otorino, che non hanno fatto questa diagnosi. Quando c'è un paziente con un problema di acufeni, specialmente se è giovane, diciamo 30-40 anni così, ma anche se non è giovane, se ha 75 anni, 70 anni è proprio possibile, ma soprattutto in assenza di patologie, no, che possono generare gli acufeni periferiche, diciamo iperteso, allora magari lo guardi aspettare, invece uno che comunque ha già un problema di dito perché magari ha la catena di ossicini artrosica, eccetera, per altri motivi. Uno che ha acufeni di continuo e contemporaneamente un progressivo abbassamento del dito è doveroso, cioè obbligatorio direi, fare una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. Risonanza magnetica encefalica con mezzo di contrasto, obbligatorio. Se un otorino non lo fa, come infatti sta cominciando a succedere, va in tribunale. Cioè, naturalmente questo c'è che ci consola, perché nel frattempo il paziente comunque ha una patologia che può essere risolta senza problemi, ha una patologia che può comportare dei rischi notevoli anche di vita, quindi farvi capire la differenza. Se ti laureerai. Vabbè, quindi questa è l'ottava. Poi il nono, ovviamente il grosso faringeo, il vago, controlla tutto quanto, diciamo la porzione di muscolatura liscia, quindi striata che va dalla faringe fino all'apparato digerente, quindi le vocali e tutta la motilità intestinale, quindi il vago, oltre ovviamente al controllo del ritmo cardiaco, insomma, quindi sono nervi fondamentali. Una lesione di questi nervi durante uno di questi interventi, appunto, che facciamo nell'angolo controcerebellare, dove li vediamo tutti belli in fila, è una lesione gravissima che può comportare poi, diciamo, non subito ma a distanza di poco tempo, anche la morte, perché appunto per troppo polmonite ab ingestis, per problemi appunto di stagno intestinale, eccetera, quindi sono cose estremamente preziose, quindi un danno anche monolaterale di uno di questi nervi può comportare la morte, non immediata ma per le complicanze. E poi ovviamente c'è l'undicesimo, che è l'accessorio che controlla lo sternocleidomastoideo e il trapezio, e il dodicesimo, che è l'ipoglosso, che controlla la mobilità della lingua. Dico questo tanto per ci capita ogni tanto di fare pazienti che hanno avuto una lesione del nervo facciale conseguente di uno schwannoma vestibolare che è diventato grande, quindi poi per toglierlo si è lesionato il nervo facciale, per ripristinare una mimica facciale, diciamo, adeguata, si fa un intervento che si chiama anastomosi ipoglosso facciale, cioè noi che facciamo? Andiamo a prendere il facciale qui proprio dove passa sotto la parotide, no? Per sfoccarsi in tutte le branche, e quindi prendiamo il moncone e lo... ancora perché tanto a monte abbiamo detto è interrotto perché c'era questo cianone, e lo colleghiamo all'ipoglosso, quindi togliamo l'innervazione a metà della lingua e lo connettiamo al facciale. Questo dà un certo tono ai muscoli facciali, ripristinando un buon aspetto. Ovviamente il prezzo da pagare è quello che questa persona non farfuglierà un po', quindi non avrà una modalità linguale adeguata, perché c'è mezza lingua che non va mai bene, quindi la dizione, anche la dizione. E qui pure servite voi. Insomma, ovviamente bisogna cercare di ripristinare una mobilità linguale adeguata, no? Cioè, pur avendo solamente metà della muscolatura linguale, è anche una conazione adeguata, no? La lingua è fondamentale per parlare, no? Mi sembra strano che ci siano tutte queste implicazioni, invece ce ne sono, quindi vedete quante cose potete fare, il campo vastissimo, però certamente io sono deformato dall'aspetto neurologico, no? Ovviamente, perché è chiaro che voi potete, una parte di voi si dedicherà alla rianimazione ortopedica e quindi magari, scusate, alla riabilitazione ortopedica, quindi... Però anche lì gli aspetti neurologici sono importanti, ritornano. E infatti purtroppo il guaio è che spesso gli ortopedici li trascurano questi aspetti. Quindi comunque avere delle reminiscenze di questo, anche se fate quello, vi sarà utile. Vabbè, qui ecco un esempio di poligono di Willis tirato fuori da un cadavere, vedete le alterazioni che c'ha, per esempio una vertebrale filiforme qui rispetto a una vertebrale ipertrofica, vedete? Poi vedete che un occhiello, per esempio questa cerebrale anteriore che si divide in due e poi si ricongiunge, e però qui vedete due anolini, uno qua, uno qua, queste sacche che si sono formate. Per dire che siamo fatti tutti uguali, ognuno di noi ha, come ce l'abbiamo all'esterno, la variabilità c'è anche all'interno. Come si presenta a un'angiografia appunto il flusso arterioso, ovviamente l'angiografia non dà risoluzioni superiori a vasi, diciamo, di questa grandezza, che sono già vasi abbastanza grandi, diciamo, intorno al millimetro. Più di questo non può dare, quindi uno può avere dei problemi nei vasi più piccoli, le piccole arterie, e non si vedono. Questa invece è una fase un po' più tardiva, dove cominciano invece a vedersi le vene, quindi tutte le grosse vene che drenano, però ancora non si vedono i segni venosi, che è una fase ancora più tardiva. Questa è la fase ancora più tardiva, dove compaiono, e noi mettiamo il contrasto, quindi all'inizio si vedono le arterie, che sono le prime dove arriva il contrasto, poi mano a mano il contrasto si diluisce e cominciano a comparire nelle vene, e poi nelle grosse vene, i grossi collettori venosi, vedete che poi alla fine mandano tutto nel oculare, nel seno trasverso, poi nel sigmoide e poi nel giugulare. Ah, questo è il circolo posteriore, lo stesso, la colonna vertebrale. Vabbè, questo era filmato con una ricostruzione, però non c'è anche 5 robot in questo programma. E penso che però per oggi può bastare. La prossima volta ripartiamo dalla circolazione di Quarano. Ciao di domani. Grazie.